io t'amerò, maldestramente oppure no, ma perso ormai, come un bambino tremerò se mi vorrai. Io t'amerò, meravigliosamente poi impazzirò, e avidamente dirò noi ti adorerò, io t'amerò. Il tuo amore sarà sconosciuto e selvaggio, e il mio cuore farà ogni giorno naufragio. Terra, frontiera in ogni mio viaggio, mi fermerò. Io t'amerò, con gli occhi dentro gli occhi tuoi sprofonderò, e so già che il fondo mai non toccherò. Io t'amerò, meravigliosamente poi impazzirò, e avidamente dirò noi ti adorerò, io t'amerò. Per morire vivrò paradiso e inferno, per amarti sarò primavera e inverno. Notte illuminata sempre a giorno, ti prenderò. Io t'amerò, ti giuro che ce la farò, affronterò ogni pericolo che ho, sia giusto o no. Io t'amerò, completamente solo io ti crederò, come un credente crede Dio ti pregherò, io t'amerò. Solo io ti crederò, come un credente crede Dio, ti pregherò, io t'amerò.